Capitolo 89. Gli amori di Minosse. Minosse si giacque con la ninfa Paria, i cui figli colonizzarono Paro e furono poi uccisi da Eracle. Si giacque anche con Androgenea, la madre di Asterio minore, e con molte altre, ma dedicò specialmente le sue attenzioni a Britomarti di Gortina, figlia di Latona. Essa inventò le reti per cacciare e fu compagna inseparabile di Artemide, di cui teneva i cani al guinzaglio. Britomarti sfuggì a Minosse nascondendosi in un fitto boschetto di querce e per 9 mesi Minosse la inseguì per monti e per valli finché, disperata, Britomarti si gettò in mare donde fu tratta in salvo dai pescatori. Artemide divinizzò Britomarti col nome di Dittinna, ma a Egina essa è venerata come Afea perché svanì, a Sparta come Artemide, soprannominata la signora del lago, e a Cefalonia come l'Afria. I Sami tuttavia la invocarono con il suo vero nome. Le molte infedeltà di Minosse irritarono Pasifae a tal punto che essa si vendicò con un'opera di magia. Ogni qualvolta Minosse si giaceva con un'altra donna, spandeva in lei non il seme ma uno sciame di scorpioni, mille piedi e serpenti che facevano scempio del ventre della donna. Un giorno Procri, figlia di Eretteo, re di Atene, e che era stata abbandonata dal marito Cefalo, si recò a Creta. Cefalo aveva lasciato la moglie per colpa di Eos, che si era innamorata di lui. Quando egli rifiutò cortesemente le sue proposte, dicendo che non poteva tradire Procri, con la quale aveva scambiato promessa di eterna fedeltà, Eos replicò che Procri sarebbe stata pronta a rompere il giuramento per avidità di denaro. Alle proteste indignate di Cefalo, Eos lo trasformò in modo che assomigliasse a un certo Pteleone e gli consigliò di attirare Procri nel proprio letto offrendole una corona d'oro. Cefalo obbedì e, visto che Procri si lasciava sedurre facilmente, non ebbe scrupoli a giacersi con Eos. Eos generò a Cefalo un figlio chiamato Fetonte, ma Afrodite lo rapì quando era ancora fanciullo affinché custodisse i suoi templi più sacri, e i cretesi lo chiamano Adimno, parola che per loro significa stella del mattino e della sera. Frattanto Procri fu costretta a lasciare Atene per via dei pettegolezzi che si facevano sul suo conto e si recò dunque a Creta, dove Minosse riuscì a sedurla facilmente come già l'aveva sedotta il finto Pteleone. Egli se la ingraziò con il dono di un cane da caccia che non mancava mai la preda e con una freccia che non mancava mai il bersaglio. Aveva ottenuto l'una e l'altro da Artemide. Procri, che era un'appassionata cacciatrice, accettò volentieri i doni, ma volle che Minosse bevesse un farmaco profilattico, un decotto di magiche radici, opera della maga Circe, per evitare che egli le riempisse il ventre di rettili e insetti. Questo farmaco ebbe l'effetto desiderato, ma Procri temeva che Pasifae trovasse ugualmente il modo per colpirla con un maleficio, e ritornò dunque in gran fretta ad Atene, travestita da ragazzo e assumendo il nome di Pterela. Quanto a Minosse, non lo rivide più. Cefalo, cui Procri si unì per partecipare a una battuta di caccia, non la riconobbe sotto il travestimento e si offrì di comprarle, per una enorme quantità d'argento, il cane da caccia Lelapo e l'infallibile Dardo. Ma Procri rifiutò di cederli se non per amore, e quando Cefalo acconsentì a giacersi con lei, piangendo, essa gli rivelò la sua vera identità. Così si riconciliarono e Cefalo poté divertirsi a cacciare con il cane e con il dardo. Ma Artemide si irritò vedendo che i suoi preziosi doni passavano così facilmente di mano in mano e meditò di vendicarsi. Insinuò dunque nella mente di Procri il sospetto che Cefalo si recasse ancora da Eos quando sorgeva 2 ore dopo la mezzanotte per recarsi a caccia. Una notte Procri, indossata una tunica di colore scuro, scivolò sulle tracce di Cefalo nell'oscurità che, lentamente, cedeva al crepuscolo. Cefalo udì un fruscio tra i cespugli alle sue spalle e, allarmato dai guaiti di Lelapo, scoccò il dardo infallibile che trafisse Procri. In seguito l'Aeropago condannò Cefalo all'eterno esilio per omicidio. Cefalo si ritirò a Tebe, dove re Anfitrione, il padre putativo di Eracle, gli chiese in prestito Lelapo per cacciare la volpe Teomessia, che faceva stragi nella Cadmea. Codesta volpe, che per volere degli dèi non sarebbe mai stata acciuffata, doveva essere placata ogni mese con il sacrificio di un bambino. Ora, poiché anche Lelapo per volere divino non poteva mancare di acciuffare la preda, si cominciò a discutere nell'Olimpo come risolvere l'intricata questione, finché Zeus, irritato, sistemò ogni cosa, trasformando Lelapo e la volpe in pietre. Cefalo prestò il suo aiuto ad Anfitrione nella guerra vittoriosa contro i Teleboi e i Tafi. Prima che la guerra iniziasse, Anfitrione volle che tutti i suoi alleati giurassero su Atena e su Ares di non tentare di sottrarre parte del bottino destinato a una suddivisione comune. Soltanto Panopeo infranse il giuramento e fu punito perché generò un figlio codardo, il famoso Epeo. Il re dei Teleboi era Pterelao, sul cui capo, per volere di suo nonno Posidone, era spuntata una ciocca aurea di capelli conferente immortalità. Sua figlia Cometo si innamorò di Anfitrione e, per meritarsi il suo affetto, strappò la ciocca d'oro di Pterelao, così che questi morì e Anfitrione sopraffece facilmente i Teleboi con l'aiuto di Cefalo. Ma Anfitrione decretò che Cometo fosse giustiziata per patricidio. Nella suddivisione delle terre dei Teleboi, a Cefalo toccò l'isola di Cefalonia, che ancora oggi porta il suo nome. Egli non perdonò mai a Minosse di aver sedotto Procri donandole il magico dardo, né poté perdonare a se stesso di essere stato causa della morte di lei. Dopotutto egli per primo aveva rotto il giuramento perché gli amori di Procri con il finto Pteleone non si potevano considerare un'infedeltà. «Ahimè», gemeva Cefalo, «non avrei mai dovuto giacermi con Eos». Benché purificato della sua colpa, egli era perseguitato dall'ombra di Procri e, per non attirare la sventura sulla testa dei suoi compagni, si recò un giorno al capo di Leucade, dove eresse un tempio ad Apollo dalla roccia bianca, e si gettò in mare dall'alto della scogliera. Mentre precipitava, chiamò a gran voce il nome di Pterelao, perché sotto questo nome, appunto, Procri gli era stata più cara. La leggenda di Minosse che seduce le ninfe con la tecnica cara a Zeus si riferisce senza dubbio alle nozze rituali del re di Cnos con la sacerdotessa della Dea Luna in varie città del suo impero. La Dea Luna era chiamata Britomarti nella parte orientale di Creta, ecco perché i greci la identificarono con Artemide e con Ecate. Nella parte occidentale di Creta la Dea si chiamava Dittinna, come ben sapeva Virgilio, chiamarono la luna Dittinna dal tuo nome. Nel mito Dittinna è connessa con Diction, che significa rete, e in particolare quel tipo di rete che serviva per cacciare o pescare. E Ditte è evidentemente una forma contratta di Dictynaeon, luogo di Dittinna. Quando fu instaurato il sistema patriarcale, non fu più la dea munita di rete a inseguire il re per ucciderlo, ma toccò al re sacro di inseguire la dea, spinto da brama amorosa. Nel folklore europeo ritroviamo spesso questi due inseguimenti. Minosse cominciò a inseguire Britomarti e la leggenda ha un parallelo nel mito filisteo di Mosso o Mopso che insegue Derceto, quando le querce sono coperte di foglie, probabilmente nei giorni della canicola, quando Set spinse Iside, il fanciullo oro, negli acquitrini del Delta e l'inseguimento terminò 9 mesi dopo, a Calen di Maggio. Anche il ratto di Europa da parte di Zeus avvenne a Calen di Maggio. A giudicare dai riti dei Celti che chiamavano la dea Goda la buona, Neantes traduce la sillaba Brito come buono, la dea stessa in origine si recava alla sua annuale festa d'amore cavalcando una capra, con una mela in mano completamente nuda ma avvolta in una rete scortata da una lepre e da un corvo. La cattedra scolpita della cattedrale di Coventry, dove la dea era così ritratta, ricordava forse le cerimonie precristiane di Calen di Maggio che si svolgevano a Southam e a Coventry e dalle quali poi nacque la leggenda di Lady Godiva. Nella Germania celtica, in Scandinavia e probabilmente anche in Inghilterra, Goda era ritualmente legata alla capra o a un uomo vestito di pelle di capra, cioè il re sacro che in seguito divenne il diavolo della stregoneria. La mela è il simbolo della morte imminente del re. La lepre è il simbolo della battuta di caccia durante la quale la dea si trasformerà in segugio. La rete servirà a catturare il re trasformatosi in pesce e il corvo pronuncerà oracoli sulla sua tomba. Pare che a Creta il culto della capra precedesse il culto del toro e che Pasifa in origine si unisse al re capro. L'Afria, colei che conquista il bottino, l'appellativo di Dittinna Aegina, era anche l'appellativo della dea capra Atena, che si narra fosse stata assalita dal caprigno Pallade, che essa scuoiò servendosi poi della sua pelle per farsi l'egida. L'epiteto L'Afria ci fa supporre che la dea fosse l'inseguitrice e non l'inseguita. Le iscrizioni di Egina dimostrano che il grande tempio di Artemide era dedicato ad Artemide Afea, non oscura, per distinguerla da Ecate. Nel mito, Afeo significa invece Afanes, che svanisce. La storia di Minosse e di Procri passò dal mito all'aneddoto e dall'aneddoto alla ballata popolare e presenta analogie con alcune favole dell'asino d'oro. Poiché è legata alla guerra di Minosse contro Atene e alla decadenza di Cnosso, questa storia ricorda forse la domanda avanzata da un re cretese per sposare ritualmente la grande sacerdotessa di Atene, il che irritò gli ateniesi. Pteleone, Bosco Dolmi, il nome del seduttore di Procri, si riferisce forse al culto del vino che si diffuse irradiandosi da Creta ai tempi di Minosse, poiché le viti si appoggiavano agli olmi. Ma può anche darsi che derivi da Pteleos, cinghiale selvatico. In tale caso, Cefalo e Pteleone furono in origine il re sacro e il suo successore, travestito da cinghiale selvatico. I sortilegi di Pasifae sono caratteristici della collera della dea Luna e Procri usa come antidoto un filtro di Circe, altro appellativo della medesima dea. Commentando il tuffo di Cefalo dalla bianca roccia di Capo Leucade, Strabone ricorda giustamente che quelli di Leucade usavano gettare in mare ogni anno un uomo munito di ali per rallentarne la caduta o persino con uccelli vivi legati al corpo. Pare inoltre che la vittima, o farmacos o capro espiatorio, si servisse di un ombrello bianco come paracadute. Sul mare lo attendevano delle barche che, se egli sopravviveva al tuffo, lo conducevano in un'altra isola. Il mito di Cometo e Pterelao si riferisce al taglio rituale dei capelli del re solare prima della sua morte, ma il nome di Pterelao ci fa supporre che l'alato farmacos in volo verso la morte fosse in origine il re sacro stesso. La sillaba Elaos o Elaios indica l'oleastro che, come la betulla in Italia e nell'Europa nord-occidentale, veniva usato per scacciare gli spiriti maligni e nel dialetto di Rodi Elaios significa semplicemente farmacos. Ma la sorte di Pterelao e quella di Cefalo sono miticamente legate l'una all'altra in quanto Procri adottò il nome di Pterela e ciò ci fa supporre che essa fosse in verità la sacerdotessa di Atena, incaricata di lanciare l'alato Cefalo verso la morte. La volpe era l'emblema di Messene, probabilmente perché gli Eoli veneravano la dea Luna nella sua epifania di volpe e il mito della volpe Teomessia ricorda forse delle incursioni compiute dagli Eoli nella Cadmea per procurarsi dei fanciulli da sacrificare. Gli Achei, devoti a Zeus, posero poi fine a tali sacrifici. Fetonte e Adimno, da Adiomenos, colui che non si ferma, sono ambedue nomi allegorici che indicano il pianeta Venere. Ma Fetonte, figlio di Eos e di Cefalo, fu confuso da nonno con Fetonte, figlio di Elio, che guidò imprudentemente il carro del sole e annegò. E con Atimnio, da Athos e Imnos, mai sazio di eroici elogi, un eroe solare venerato dai milesi. Epeo, che costruì il cavallo di legno, appare nelle leggende più antiche come un guerriero di straordinario valore, ma il suo nome fu usato per definire ironicamente i fanfaroni, finché divenne sinonimo di codardia.